快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带。 系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 欢迎收听 CD 博览，我是古月。今天为你这张唱片里收录的是他演唱的普契尼、比才、威尔第、威伯、瓦格纳等作曲家的著名歌曲唱段，下面请连续欣赏。这张唱片里收录的是他演唱的普契尼、比才、威尔第、威伯、瓦格纳等作曲家的著名歌曲唱段，下面请连续欣赏。 Thank you. Oh! Thank you. Verschmilzt das Schicksal. Verschmilzt das Schicksal. Perché? Non ero con un libro di quanto un corpo sia. mai sento. Io sono in grado di avere questo legno. E taceli. E forse ne si posso. Mi posso. Orfa, bisogna. E me lo dici. Orvanne, andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora di tutto bene riparare. So infamia, io vissi in tale errore, ma i corpi son a frangere, i vermi velero. Per poco il seno acquetati, o grido, grido dell'onore, ma mai sicuro indice questo sor, o infania, o si questo andavero, si andero, o mio rosor, o infania, o si questo Lontano, lontano, lontano, lontano.

furia o l'anima. Thank you. Schmerzen tut dir.